Bene, allora buonasera a tutte e a tutti, scusate il ritardo, ma in redazione, quindi sono momenti un po' complicati. E, beh, intanto benvenute e benvenuti in questo luogo di storia e di cultura che tutti sicuramente conosciamo, però mi piace ricordare lo spirito e le tante attività che ci fanno ritrovare periodicamente, sia per presentazioni di libri o semplicemente per visitare e compiere una ricerca nella grande biblioteca internazionale della Lelio Basso, o allora per ascoltare corsi di giornalismo, per ascoltare conferenze sui diritti umani, che è uno dei tanti ambiti su cui lavora e su cui si mette a confronto e mette in circolo i saperi questo luogo storico. E ci sono appunto anche corsi di formazione, cioè non a sinistra siamo molto più capaci di criticarci a vicenda, magari di farci anche i musi, e molto meno di mettere a valore le cose buone che in tutti questi anni si fanno in luoghi preziosissimi come questo, magari a volte in completa solitudine o in controtendenza rispetto a un clima culturale che è quello sempre dell'urlo, della polemica senza costrutto, o anche purtroppo della chiacchiera da bar, dove non si parla più con competenza delle cose. Quindi studiare, documentarsi, confrontarsi senza falsi ecumenismi, mettendo anche in evidenza le differenze, però cercando di nominare i punti di criticità e come è, parlo per, come dire, per storia, come è prassi del movimento delle donne che sempre più si propone all'attenzione del mondo come un nuovo modo di affrontare le questioni, cercare di agire, di trovare un consenso, anche a costo di mettere, di fare un'epoché, di mettere fra parentesi quello che non si può risolvere in determinati momenti per poterlo poi riprendere senza spezzare i fili del confronto, del dialogo. E siamo in un momento in cui nel mondo invece predominano altri tipi di non relazioni, cioè sono quelle delle guerre, sono quelle del nascondimento, di quanto ha di sano anche il conflitto, non nominandolo più, nascondendolo, capovolgendolo. Lo vediamo in paesi diversissimi dal Medio Oriente, ma anche dall'America Latina. Recentemente qui ho partecipato, ho coordinato un incontro sul Kurdistan, però vediamo che il mondo oggi è ridotto a una polveriera. E allora guardare a quelle aree del mondo in cui, prendo per entrare in tema per esempio la questione indigena, che ha portato all'attenzione nuove cosmogonie che complicano, ma anche che interrogano fortemente questo tipo di modernità neosviluppista che ha al centro, che mette al centro non il benessere dell'essere umano, ma quello del capitale, è una cosa molto importante. Il tema di quest'oggi è questo, appunto. Salutiamo con molto affetto, io in particolare, perché da tanti anni che non ci rivedevamo, Iuri Castelfranchi, che oltre a essere uno scienziato folgorato sulla via della foresta, poi ci dirà, no? dell'Amazzonia, è stato a lungo collaboratore scientifico anche del Manifesto, che è il quotidiano in cui lavoro io, e poi ha fatto molte altre cose, cercando, da quello che constato una nuova volta, di coniugare l'accademia con il senso forte dell'essere intellettuale, per come lo intendeva Gramsci, cioè affrontando le cose, la pratica, con quel quantum, con quella cifra di passione che nulla toglie al rigore e però si spende nelle cose, no? Senza riserve, stando in ricerca. E quale luogo più fortemente simbolico dell'Amazzonia per essere in ricerca, come si diceva una volta. Quindi dico due cose soltanto di contesto, perché poi siccome ho molte domande, se Iuri me lo permette lo tempesterò un po', unitamente a quelle che poi vorrete fare voi sul Brasile, intanto sul legame storico che questo posto ha col Brasile, che si incarna nelle persone fisiche che lo rappresentano, ma che ha anche dietro le spalle molti anni di lavoro, di confronto. Qui sono venute tantissime persone molto rappresentative di vari settori sociali e, del Brasile, che hanno portato al presente a noi tutta la ricchezza di un paese che sentiamo molto vicino. Tutta l'America Latina è molto vicina all'Italia per storia, per purtroppo sfruttamento di risorse, ma anche per una frequentazione bilaterale di immigrazioni che non sono mai finite. E il Brasile oggi è al centro, uno dei due grandi paesi insieme all'Argentina del continente latinoamericano, è al centro di una profonda crisi politica, economica, istituzionale. Ci saranno, e una crisi che però mette al centro la straordinaria vitalità dei settori popolari. È venuto qui recentemente, che hanno la questione indigena e la questione della terra al centro della politica che si è fatta e che non si è fatta e che si deve ancora fare. Il grande debito storico che il Brasile non ha colmato, e che in parte ha colmato soltanto una parte del settore latinoamericano nei confronti delle popolazioni indigene, che nello specifico sono state massacrate e hanno subito la cosiddetta assimilazione, che purtroppo, come sempre, ha portato distruzione, morte, e però ancora una volta si fanno vedere anche fisicamente con le loro frecce e col loro portato antico davanti ai parlamenti, dicendo siamo qui, non solo non siamo morti, ma siamo portatori ancora di un altro mondo. Questo proprio qui all'Alelio Basso è venuto recentemente un leader indigeno a chiedere effettivamente che l'Europa faccia la sua parte. Ovviamente questo ci interroga profondamente, perché di quale Europa parliamo, qual è la parte di responsabilità, che cosa possiamo fare noi per condividere e per in qualche modo riconoscere e farci riconoscere in uno specchio che ci rimanda un'immagine ben poco rassicurante. Quindi chiederei a Yuri di dirci, di cominciare a condividere con noi qualcuno dei tanti aspetti concreti e simbolici che lo hanno attraversato e che tu hai affrontato anche in questo libro, che vorrei farlo vedere perché è uno dei tanti libri che Yuri ha scritto, però questo è in italiano, quindi forse possiamo ancora ritrovarlo per ritrovare un pezzo di questa serata che stiamo portando avanti insieme. Yuri. Grazie Gerardina. Beh, facciamo un applauso di benvenuto. Mi sentite se parlo senza microfono? Ah, c'è la registrazione, allora va bene. Io non riesco a parlare seduta, una cosa che ho bisogno di muovermi. Buonasera a tutti e tutti, io ringrazio moltissimo la Fondazione per aver organizzato questo incontro. È stata una sorpresa bellissima trovare Geraldina, non ci vediamo, non so, forse da 15 anni, e in quei brevi incontri di vita di redazione al giornale ho imparato tantissimo, non solo di giornalismo, né solo di cultura. La Geraldina è stata una bellissima sorpresa avere qua. E sono un po' emozionato a parlare. Io faccio adesso il professore universitario, prima facevo il giornalista, quindi normalmente sono capace a parlare in pubblico, però mi sono reso conto, venendo qua, dal brivido che avevo nello stomaco, che non ho mai parlato d'Amazzonia. In realtà è una delle poche cose di cui non ho mai parlato in pubblico, delle mie storie, dei miei viaggi, quindi mi fa un po' impressione. E poi ci sono un sacco di, sono abituato a parlare a sconosciuti, invece ci sono un sacco di amici e parenti che non vedo da 20 anni e che mi hanno fatto la sorpresa di essere qua, anche perché non c'eravamo da anni, quindi è un po' più emozionante parlare oggi. Ci proverò. E quello che volevo provare a raccontare, poi magari potete anche intervenire durante, non c'è bisogno di farlo solo alla fine, nel senso che è più una collezione di storie con riflessioni in mezzo, ma il messaggio che volevo cercare di portare oggi su questa foresta, che è Mille Foreste, è la difficoltà di raccontarla, l'incredibile complessità di un posto che non è solo un posto, che sono mille luoghi e che soprattutto sono mille simboli per noi. Raccontare l'Amazzonia agli europei è molto difficile, perché noi abbiamo caricato sull'Amazzonia una serie di di miti, di simboli, di allegorie, di metafore, l'abbiamo caricata di un messaggio gigantesco e contraddittorio, tra l'altro. Quindi è molto difficile portare qua l'Amazzonia reale. Io ci proverò. E la prima cosa che è veramente impressionante quando uno arriva lì le prime volte, io il primo viaggio che ho fatto in Sud America è stato nel 94, ero un neolaureato in fisica quantistica che stava per diventare un'altra cosa e ancora non sapevo cos'era che stavo per diventare. C'era anche un cugino che è qui oggi presente e finimmo nel Pantanal, che è una grande regione di paludi e savane nel Mato Grosso, di conflitto e bellissimo naturalisticamente. Sin da questo primo viaggio, una cosa che mi ha sempre scioccato d'Amazzonia, non ha mai smesso di scioccarmi, perché dopo non sono più riuscito a fermarmi. Ho viaggiato in Venezuela, in Colombia, in Perù, in Bolivia, in Ecuador, ho visto l'Amazzonia da tutti i lati, diciamo, e non ha mai smesso di sorprendermi. La cosa che tutte le volte mi scioccava è che non era mai quello che mi immaginavo. Non era mai l'idea che io avevo venendo da qua dell'Amazzonia. Quindi uno immaginava, per esempio, alberi giganteschi, queste scene idilliche che uno è abituato a vedere nei film, e trovavo delle boscaglie chiuse, impenetrabili, fatte di alberi striminziti che cercavano disperatamente di allungarsi verso un filo di luce, ed erano quasi tutti sottilissimi, non erano queste cose giganti. Immaginavo un trionfo di vita, come si vede nei film, come nel nostro mito, un po' da Paradiso Perduto. E a volte l'impressione che uno ha in molte zone di foresta, uno si alza presto e il suono che senti non è tanto degli uccelli che cantano, ma senti come il suono di una foresta che mangia se stessa. Sono milioni di foglie che cadono continuamente, appena cadono sono sommerse da formiche che le tagliano a pezzetti e le portano sottoterra per allevare i funghi che poi mangiano, e altri organismi decompositori. È come un mangiarsi sul mangiarsi, e quindi in certi momenti sembrava più un trionfo di morte che un trionfo di vita, una cosa barocca così. Insomma, quello che ho visto in tanti anni di viaggio è che ogni volta l'Amazzonia ti sorprende, non è mai esattamente quello che ti immagini. Ho incontrato decine di persone, biologi, indigenisti, antropologi, ambientalisti, militanti, militari, e ovviamente i caboclos, i siringhero, i cercatori d'oro, gli abitanti d'Amazzonia e i turisti, ovviamente. E per ognuno di loro l'Amazzonia era un'altra cosa. Ognuno aveva un'Amazzonia diversa nel cuore, nella memoria, negli occhi, e quello che avevamo in comune era come uno sguardo duro, disincantato, della durezza di questa terra, però appassionato. È come un amore impossibile, una cosa che uno è allo stesso tempo appassionato e disilludito, no? Disilluso. Quindi volevo cercare un po' di raccontare questa idea del fatto che intanto non è un luogo, sono mille foreste, savane, acque, fiumi, è troppo grande per riassumere l'Amazzonia, è troppo diversa da se stessa e da come la immaginiamo. E soprattutto il secondo fattore di difficoltà di raccontare l'Amazzonia non è solo la sua diversità concreta, biologica, culturale, geografica, montagne, valli, eccetera, ma il fatto che non è un luogo per noi, perché è un simbolo. In realtà l'Amazzonia gli europei non l'hanno scoperta, l'hanno inventata. Noi abbiamo inventato un posto che è fatto un po' di tutti i miti che non trovavano più posto nell'Occidente e nell'Oriente che avevamo già esplorato. Nella misura in cui Marco Polo arrivava ad est e non si trovava l'Eden, non si trovava il paradiso perduto che doveva trovare, non si trovava il Santo Graal, non c'erano più le Amazzoni, nella misura in cui il mondo a est si faceva piccolo e conosciuto, gli europei quando arrivano in Amazzonia e in generale in Sud America dirottano tutti i miti che prima trovavano ospitalità in Africa o in Medio Oriente. Quindi vedono cose che nel 500 non erano pensabili, non erano comprensibili, non erano decodificabili. Vedono persone nude, e nel 500 per 20 anni si discute scientificamente se questi esseri che sembrano persone siano solo scimmie senza coda in realtà, perché erano così troppo diversi da quello che per un cristiano poteva essere un essere umano. Non avevano fede, apparentemente non avevano una religione, non avevano legge, non avevano stato, non avevano capi, molti di loro erano poligamici o poliandrici, erano nudi. I portoghesi, scioccati, si accorsero che gli indios non riuscivano neanche a pronunciare la parola re e legge, che la lingua indigena era una lingua orientale, quindi un po' come nella caricatura che oggi si fa degli orientali, dei giapponesi e dei cinesi, la L e la R erano simili, quindi non riconoscevano la parola re, la parola legge. Era scioccante per i portoghesi il fatto che gli indios non si inginocchiassero di fronte alla Bibbia al vederla e non sapessero pronunciare la parola re e legge e fede. Quindi erano scene così impossibili da decodificare che quello che i portoghesi e gli spagnoli vedevano erano allegorie di miti che non trovavano più posto in Occidente. Quindi l'Amazzonia è stata ora un inferno verde, la febbre gialla, gli attacchi con le frecce degli indios, il curaro, la malaria, tutte cose scioccanti, cose impenetrabili, si arrivava ma non si usciva, se si usciva impazziti, però era anche il paradiso perduto. Per molto tempo si è pensato che il paradiso terrestre fosse lì, in Amazzonia. Vari esploratori sul loro diario di viaggio scrivono se il paradiso terrestre su questo pianeta deve essere qui. E quando ti accorgi che un posto allo stesso tempo è un paradiso e un inferno nella narrativa nostra, vuol dire che è un mito. Quando immagini così contraddittorie sconvivono nei racconti dei viaggiatori è perché è un mito. E quindi abbiamo dirottato il mito delle Amazzoni, quello dell'Eden, l'elisir di eterna giovinezza, il Santo Graal, per varie persone erano da ritrovare lì, l'Eldorado ovviamente, e in tempi recenti, a partire dal secolo XX, abbiamo inventato l'Amazzonia come polmone del mondo, nonostante non lo fosse, abbiamo reinventato l'Amazzonia come scrigno della biodiversità, quando invece che l'ossigeno diventava importante il DNA, alternativamente la vediamo come l'ultimo far west, la terra senza legge, dei conflitti per la terra, dei conflitti con gli indios, oppure il luogo dove ancora giacciono nascoste saperi millenari, sciamanici, forse la cura per il cancro e così via. Insomma, è un posto di opposti, di contraddizioni, è un posto che abbiamo inventato sedimentando miti che ci accompagnavano da migliaia di anni e stanno tutti lì ancora oggi, stratificati. Quindi è difficilissimo viaggiarsi, perché uno viaggia dentro un'allegoria, non viaggia solo dentro un posto, e le dimensioni ovviamente non aiutano a fare dell'Amazzonia un solo luogo. Per darvi un'idea, questa è l'Italia come entrerebbe nell'Amazzonia brasiliana, e questa è l'intera Europa occidentale che entrerebbe comodamente in Amazzonia, quindi non si può pensare che sia una foresta. Per darvi un'idea, è un'isoletta alla foce del Rio dell'Amazzonia, sarebbe come l'isola Tiberina loro, diciamo. In mezzo al Rio dell'Amazzonia c'è un'isoletta sulla foce che si chiama Marajó. È un'isola mezza inclinata, è mezza sommersa dal mare e mezza all'insù, abitata da bufali che nessuno sa come ci sono finiti, da qualche nave corsara indiana, piena di bufali e bufale misteriosamente. E quest'isoletta in mezzo al Rio dell'Amazzonia sulla foce ha le dimensioni della Svizzera, neanche si vede sulla mappa. In quel punto del fiume non si vede l'altro lato del fiume, tant'è vero che quella regione si chiama Pará, che vuol dire oceano in realtà. I portoghesi ci hanno messo anni a capire che quel posto non era il mare ma era il fiume, non capivano perché fosse un mare però di acqua dolce, non si vede l'altro lato. Quando ci arrivi in barca, nell'ultimo giorno in cui scendi dal Rio delle Amazzoni e vai verso la foce, ti svegli all'alba perché il battello su cui stai, che normalmente è una barca abbastanza grande, ti svegli con i conati di vomito, non capisci perché, ti affasci dalla balaustra del battello a tre piani e vedi che sta oscillando su onde di 5-6 metri. Il Rio dell'Amazzonia è quasi sempre orizzontale, come un lago, non c'ha pendenza, non c'ha corrente, eppure in quel punto fa onde di 7 metri. È la marea dell'Atlantico che cerca di entrare con l'intera forza di un oceano su un fiume che c'è una portata di decine di milioni di metri cubi al secondo, che si scontra e vuole uscire. Nello scontro fra queste due acque, fra queste due energie, è la pororoca. Crea un tuono nell'aria che si sente a 100 km di distanza. E queste onde straordinarie che fra poco vi faccio vedere. Quindi la prima cosa d'Amazzonia è questa. Più che foresta, è un mondo fatto di acque. Ci sono vari incontri delle acque, per esempio, perché i fiumi d'Amazzonia normalmente hanno tre possibili colori. Quelli più rari sono i fiumi di acque blu, come li immaginiamo noi. Quelli più comuni sono fiumi o di acque torbide, colore di ocra, colore del fango, o di acque color Coca-Cola. E normalmente sono 11.000 affluenti del fiume. Quando si incontrano, hai questi momenti in cui sembra che è affondata una petroliera, ma sono due acque, una acidissima e scura, una basica, che si incontrano e ci mettono un sacco di tempo a mischiarsi perché seguono il loro corso. Quindi prima, più che foresta, è un mondo di acqua, l'Amazzonia. Scusa, quando la fisica incontra la poesia, nasce un viaggiatore delle stelle. Che io mi emoziono a parlare dell'Amazzonia. Passerebbe le ore a sentire. 11.000 affluenti, pensate, i più piccoli di loro, quelli che in Amazzonia chiamiamo gli igarapé, che vuol dire più o meno torrente, ruscello, hanno le dimensioni a volte di 10, 15, 20 volte il Po. Sì, Colombia, Venezuela, Guyana, Ecuador, Perù, Bolivia, ovviamente il Brasile è la parte del gigante. Più dell'80% dell'Amazzonia è occupato dal Brasile, e a sua volta il Brasile, quasi il 45% del paese intero è Amazzonia. Quindi questo poi lo vedremo fra poco. Per il brasiliano è una contraddizione incredibile, perché per il brasiliano medio che vive in città, parlare d'Amazzonia è come per noi parlare della Siberia, un luogo remoto in cui quasi nessuno di noi è stato. Sappiamo che è importante, fa parte dell'Europa, ci sono belle storie, la transiberiana. Lo dico alla fine. Ecco la Pororoca. Questo è un documentarista famoso, è come l'Alberto Angela brasiliano, che è andato a registrare la Pororoca e ha dovuto scappare via nel momento. Per darvi un'idea dell'energia di questo scontro di acque. Quindi acqua, energie continentali che si incontrano e ovviamente la famosissima mega diversità. L'Amazzonia è uno degli hotspot, no? Dei punti di straordinaria diversità biologica. Questa è un'altra cosa che sciocca chi come me arrivava con un appassionato naturalista con la sua macchina fotografica. All'epoca c'avevo la Zenit sovietica con l'obiettivo così pesantissima, con la pellicola dentro così, e il fatto di non riuscire a riconoscere neanche le famiglie. Io ero un erpetologo all'epoca, quindi conoscevo tutte le specie una per una di anfibi, rane, raganelle, rospi, salamandre, tritoni e rettili d'Europa, tutte, d'Europa, non d'Italia. Arrivo lì e non si riesce a capire nulla, sono centinaia e centinaia di specie. I biologi professionisti in molti casi possono al massimo dire di che famiglia fa parte un organismo. In un ettaro di foresta amazzonica voi riuscite a trovare più specie di alberi che a volte in interi paesi del continente europeo. Noi qui siamo abituati alle faggete, alle pinete, ovvero un bosco europeo è ricchissimo biologicamente, ma normalmente il numero di specie di alberi che ci sono è molto basso. Lì tu non incontri lo stesso albero due volte. Questa è una delle tragedie d'Amazzonia, perché tu non puoi, se da noi vuoi legno di pino c'hai una pineta, se vuoi legno di noce c'hai le noci, se vuoi legno di faggio c'hai la faggeta. Lì per fare il mogano tu devi distruggere appezzamenti enormi, perché trovi un albero ogni 2 chilometri. Per fare la gomma, quella del caucciù, degli alberi della gomma, i seringaros devono alzarsi 2 ore prima dell'alba e fare un percorso di 30 chilometri a piedi per alla fine giornata aver inciso 20 alberi. Sono a distanza di chilometri le stesse specie. Quindi sono centinaia di specie di anfibi, tra l'altro straordinari. Questi sono i dendrobati, che sono coloratissimi, velenosissimi, secernono sostanze delle proprietà farmaceutiche fondamentali. Tra l'altro una delle tragedie della biopirateria sta proprio associata a queste ranocchie. Nel 92 la convenzione di Rio de Janeiro della biodiversità, la convenzione mondiale, Bush padre si rifiuta di firmare la proposta fatta da Brasile e India di riconoscere i diritti di proprietà intellettuale chiamati sui generi, ovvero collettivi, perché i saperi per esempio sulle proprietà medicinali del veleno di queste rane sono rubati da multinazionali che li brevettano. Brasile e India chiesero la possibilità non di rinunciare ai brevetti, ma che i brevetti potessero appartenere a comunità, a popoli, e questo fu rifiutato da Bush. Dopo da Clinton fu rinnovato questo rifiuto. Quindi a tutt'oggi, se una multinazionale decide di brevettare sostanze già conosciute agli indios, già usate, lo può fare, detiene poi il monopolio dell'uso. Quindi sto ranocchio è anche un po' il simbolo di questo di cui parliamo proprio là, e così via. 1200 specie di uccelli diversi. Questa è l'arpia, l'aquila più grande del mondo, quando apre l'ali sembra un aliante, rarissima. Mi permetto di dire, a proposito dei brevetti, che in questa nuova America Latina, adesso purtroppo il Brasile è tornato indietro, speriamo che riparta fuori dal golpe istituzionale in cui è stato invischiato, però esattamente era questo il tema dei brevetti, di poter avere il controllo, come per esempio ce l'hanno il Venezuela, Ecuador, i paesi dell'Alba, sulle proprie risorse, sui beni comuni, e il primo dei quali è la straordinaria, come stavi dicendo tu, diversità che esiste in questi paesi, che si pensa solo al petrolio, eccetera, invece però, per esempio penso al Venezuela, ma non solo, hanno una straordinaria biodiversità da proteggere, acqua, eccetera. Sì, esatto, è quello che... appunto, cioè magari ne parliamo anche dopo una discussione. Quello che io volevo anche lasciare come messaggio è che l'Amazzonia la vediamo come questo posto mitico e remoto, in realtà è un centro nevralgico, strategico della contemporaneità. È ovvio che noi pensiamo adesso prima di tutto al Medio Oriente, è normale, però l'Amazzonia è uno degli aghi della bilancia della spirale di collasso climatico del pianeta, quindi è lì che si faranno i giochi nei prossimi 50 anni. In Amazzonia non solo c'è il petrolio come Medio Oriente, c'è il niobio, c'è l'uranio, esatto. Ci sono una quantità di risorse veramente cruciali e c'è l'acqua. Il 20% di tutta l'acqua dolce che resta sul pianeta passa da lì. Ci sono adesso petroliere vecchie, svuotate, che vengono usate adesso alla foce del Rio dell'Amazzonia per caricare milioni di litri d'acqua al minuto e esportarli in Europa. Quindi la battaglia per l'acqua anche passerà da lì. E quindi è un posto geopoliticamente assolutamente strategico e però invisibile, defilato. E molte delle grandi discussioni in gioco geopolitiche di oggi, per esempio brevetti e diritti di proprietà intellettuale, sì, cambiamento climatico e tutti gli accordi passano per questo fulcro che è l'Amazzonia. C'è un dato inquietante ancora di più a proposito della guerra di Trump, che per la prima volta nella storia del Brasile dopo la dittatura Temer ha permesso alle truppe degli Stati Uniti di andare a fare esercitazioni in Amazzonia proprio per consentire dei corridoi d'entrata nei paesi che non vogliono sottostare al neoliberismo. Questo è un dato estremamente preoccupante perché ci dice che cosa sta succedendo, cosa vorrebbero che succedesse in Venezuela e nei posti che non sono... Quanto è strategico lì. Comunque, insomma, e così via, senza entrare troppo nei dettagli della questione della biodiversità, poi dopo se qualcuno ha più curiosità, ma insomma, per dare un'idea di questa incredibile ricchezza, negli anni in cui io stavo lì più spesso, adesso ci vado molto meno, se uno andava al mercato del pesce in città, in mezzo ai palazzi, alle strade asfaltate, a comprare il pesce, una volta su 10 incontrava un pesce sconosciuto alla scienza. Succedeva settimanalmente questo, sono una quantità di specie bizzarrissime, stranissime e di sottospecie che era relativamente frequente, vi parlo di 15 anni fa, sapere, questa è la bella della diretta. I pescatori sapevano il nome di questi pesci, ovviamente gli indios a volte riconoscevano due specie diverse dove per il biologo era solo una, nel caso di insetti specialmente o di liane, di sipoci, sono stati vari casi in cui quella che sembrava essere solo una specie poi gli indios ti mostravano che erano due e l'analisi del DNA confermava, ma insomma solo per dare un'idea che è una diversità così straordinaria che realmente fino a pochi anni fa erano quasi mensili le scoperte e ancora oggi sulle proprietà di questi organismi ci sono scoperte frequentissime. Per esempio 2 settimane fa i biologi hanno scoperto che una quantità enorme di raganelle e di rane già conosciute però non si erano mai accorti che sono fluorescenti, cioè se uno le illumina con la luce da discoteca diventano, diventano luminosissime, non si sa ancora bene perché succede questo, ma insomma, e quindi così via, diciamo. Forse più di 2 milioni di specie di insetti, il forse è una costante in Amazzonia, non è molto chiaro, sono stime, perché quello che loro fanno è accorgersi, primo, che una quantità enorme di specie di insetti vive solo sulla coppa, come si dice, cioè sul tetto degli alberi, quindi a 50, 60 metri, 40 metri, 30 metri di altezza, quindi si organizzano scalate con le corde, si va sul tetto di un albero, si prendono scarabei, coleotteri, eccetera, e ci si accorge che dei 100 che hai presi uno è una specie nuova, poi si va sull'albero accanto e se ne trova un'altra specie nuova, poi si fa una stima e si dice allora forse in questa foresta ci sono ancora 100, 200, 300 specie di insetti mai descritti, quindi non è molto chiaro quante possono essere le specie. Ci sono alcuni biologi che pensano che siano 20 milioni di specie, altri che pensano che sia una, ma insomma il forse è una costante, e così via. Mammiferi, che ovviamente sono meno specie più conosciute, ma persino qui sono state scoperte recentemente nuove specie di primati, e così via. E i pipistrelli ovviamente che la fanno da padrone in Amazzonia, ci sono quelli insettivori, quelli che pollinizzano le piante, i vampiri ovviamente, quelli che mangiano frutta, è una quantità di specie di pipistrelli fantastica. Ma di tutte hanno le ali trasparenti così come si vedono? Sì, sembra di vetro. E questo è il famosissimo boto, no? Il delfino d'acqua dolce che risale ai fiumi dell'Amazzonia di color di rosa. Dice la leggenda amazzonica che nelle notti di luna, quando ci sono le feste in paese da ballo, il boto esce dall'acqua e si trasforma in un bellissimo ragazzo con un vestito bianco, con un cappello in testa per nascondere il buco, e va a ballare con le ragazze più belle. Poi alla fine della notte sparisce. Molti bimbi nei villaggi amazzonici sono chiamati figli del boto, perché molte ragazze restano incinte, non è molto chiaro la paternità, sono i figli del boto. È un bellissimo. Ci racconta in un altro modo quella storia del falegname. Sì, esatto. È molto più carina. E così via, insomma. E ovviamente questa mega diversità biologica non è separata da un'altrettanto incredibile megadiversità, che è quella sociale e culturale. La quantità di nazioni indigene in Sud America in generale, e in particolare in Amazzonia, è scioccante, nel senso che tu hai più di 150-170 lingue indigene diverse, lingue proprio. E questi gruppi indigeni diversi sono diversi veramente, più di quanto noi siamo diversi da uno svedese, per esempio. Sono lingue veramente di ceppi linguistici diversi, culture, religioni, maniere di dare ordine al mondo, ossia cosmogonie estremamente diverse, o cacciatori, o agricoltori, o poligamici, o poliandrici, una quantità di possibili configurazioni sociali incredibilmente diverse in un ambiente che per noi europei era tutta una distesa più o meno uniforme. E diciamo un grande antropologo francese che era Pierre Clastres, che diceva, per esempio, essendo un marxista in realtà di origine, ma lui diceva: se sei un antropologo e vai in Amazzonia non riesci a restare marxista, nel senso apparentemente le condizioni materiali sono le stesse, eppure questi riescono ad avere una superstruttura, cioè delle culture completamente diverse in condizioni che apparentemente sembrano simili, ossia l'autonomia dell'incredibile ricchezza e creatività quasi barocca della maniera di inventare culture, e tantissimi popoli diversi, dopo magari ne parliamo un po' più, e ovviamente non solo indigeni. Oggi in Amazzonia vivono 20 milioni di persone, di cui gli indios sono una percentuale infinitesima in realtà, sono gruppi molto piccoli ovviamente quelli indigeni. Quello che c'è in Amazzonia sono ovviamente i famosi ribeirinhos o caboclos, che vivono così o in palafitte o in case galleggianti. Molti dei fiumi grandi d'Amazzonia, per esempio l'Amazonas, il Rio Negro, fra la stagione delle piogge e quella secca si alzano a volte di 10 o 15 metri, quindi non è che uno può fare una casa e arriva al mare se fa il pescatore, deve fare una casa galleggiante che sale e scende, e anche il porto deve salire e scendere, sì, anche sì. L'ospedale deve salire e scendere di 15 metri, quindi questi sono i ribeirinhos, quelli che vivono sulle rive dei fiumi. E ovviamente i seringueros, i castagneros, quelli che vivono dell'estrazione dei prodotti della foresta, non solo della pesca. Chi sono questi popoli? Sono da un lato persone la cui penetrazione in Amazzonia risale già all'epoca dei portoghesi. Sono stati portati là quando c'è stato il boom della gomma, per esempio, sono stati portati là in condizioni di semischiavitù moltissimi contadini del nord-est durante la dittatura militare. Con lo slogan della dittatura, diamo alle genti senza terra una terra senza genti, ossia l'idea era: modernizziamo il paese facendo abitare l'Amazzonia dalle persone che non hanno una terra e che fanno pressione sociale sulle favela, sulle grandi città. Il governo assegnò terre a dei coloni che quindi vennero anch'essi specialmente dal nord-est, ma non solo, quindi ci sono colonie giapponesi in Amazzonia, hai persone discendenti di olandesi, perché c'è stata ovviamente una presenza olandese forte, hai una serie di persone che dal 500 ad oggi sono penetrate in Amazzonia, in alcuni casi con la violenza, in altri casi per la speranza, e non sono più tornati, diciamo. Quindi seringueros, ovviamente Chico Mendes, per esempio, famosissimo Chico Mendes, di cui riparleremo fra poco. E quindi, più che Inferno Verde, quello che succede in questi contatti così molteplici di migranti che arrivano, di colonizzazioni forzate, di schiavitù prima degli indios, poi degli africani, poi dei propri brasiliani portati in foresta per questo mito dello sviluppo che consisteva in pulire la foresta e trasformarla in strade, in campi, in miniere, eccetera, l'inferno verde dei primi esploratori, la febbre gialla, gli attacchi indigeni, diventa oggi invece un inferno rosso. Ciò che resta d'Amazzonia, quando uno fa lo slash and burn, tu butti giù, aspetti che si secca col sole, che trasuda l'acqua che impregna il terreno, e poi incendi tutto. Normalmente c'hai per alcune stagioni, normalmente 2 o 3 anni, un terreno molto fertile, perché è bruciata un'enorme biomassa, quindi è molto fertile. Dopo il 3o-4o anno non cresce quasi più niente, e a quel punto normalmente si mettono le mucche, si pianta pascolo perché non è più produttivo agricolmente, si mettono le mucche che, oltre a finire di erodere il terreno, lo calpestano e quindi lo fanno diventare un blocco di argilla. Quindi, oltre al legno, ovviamente il grande problema oggi della deforestazione amazzonica è l'avanzare della frontiera dell'agrobusiness, quindi la soia, le mucche, quasi tutto legato ovviamente a quello che succede qui, sono tutte legate all'esportazione, diciamo. Quindi quello che resta è questa terra rossa, e questo è un altro dei motivi per cui non vai mai a vedere 2 volte la stessa Amazzonia. Ogni volta che sorvoli l'Amazzonia, il posto che ti ricordavi di essere passato 6 mesi prima, se è in questa frontiera dell'arco della deforestazione, non c'è più. È veramente straziante vedere questa cosa. È quasi, se tu la conosci un po', se ci sei stato varie volte, se memorizzi i posti, è impossibile non piangere quando sorvoli l'Amazzonia, perché questa avanzata di distruzione quasi nucleare è veramente impressionante, specialmente in certe zone, il Pará, Rondonia, è una cosa scioccante da vedere, e restano queste scene, cioè veramente passaggi lunari. La cosa più triste è che, se uno vede cosa succede, no? Poi ci sono state varie tendenze di stagnazione. In certi momenti sembrava che il governo Lula fosse riuscito a diminuire fortemente la deforestazione, però in realtà quello che vedi è che uno dei vari problemi, e poi ne parleremo magari in una discussione in maniera più approfondita, è che quando ci sono dei picchi di crescita economica in Brasile, normalmente la crescita economica in Brasile coincide anche con i momenti di maggior deforestazione, non di minor deforestazione. Quindi non è solo il problema conosciuto della povertà che genera deforestazione, ma nel caso brasiliano anche il contrario esatto, ovvero la crescita economica sta fortemente associata a picchi di deforestazione. Poi magari entriamo nei dettagli. Il grosso della deforestazione è frontiera agricola, ma le parti che percentualmente sono minoritarie, per esempio le miniere d'oro, come dimensioni, come territorio, sono un impatto minore, ma hanno un impatto ovviamente ambientale gigantesco, perché restano questi crateri e inquinamento da mercurio, c'è una serie di cose a lungo termine veramente disastrose. Questo è il famoso arco della deforestazione, dove sta più avanzando la deforestazione, lì è un po' più dettagliato, e se uno prende le foto da satellite dagli anni 90 ad oggi, vede che questa cosa è veramente scioccante come si sta spargendo. E nei periodi in cui sembra più controllata, in realtà c'è anche un problema di detettare, nel senso, tu puoi per esempio avere un impatto ambientale altissimo senza distruggere gli alberi dal tetto grande, mantenendo per esempio la copertura di ombra di parte del territorio. Quindi in quei casi sembra che non ha deforestato, ma in realtà l'impatto sul suolo e sulla biodiversità è altrettanto tragico. E questa è più o meno la situazione fondiaria dell'Amazzonia della parte brasiliana, e se uno confronta le mappe d'Amazzonia con le riserve indigene, con le mappe di satellite, le zone deforestate, tu vedi che praticamente le zone che meglio stanno tenendo, stanno resistendo all'avanzare della deforestazione, sono le aree indigene. Questo poi ci torniamo fra poco, perché è importante. E molti dei territori d'Amazzonia sono territori sottoposti a grillage, come si dice in Brasile, ovvero sono territori dell'Unione, pubblici o protetti, ma in cui i latifondisti locali armati o di minacce o di pistole o di corruzione riescono ad avere titoli di proprietà falsi. Quindi deforestano, distruggono tutto con un titolo di proprietà falso che si chiama grillaging, che normalmente si pigliava il documento falso e si metteva in una cassa piena di grilli, così si invecchiava artificialmente e sembrava del 1700, e tu dici eccolo qua, è mio. E ovviamente ci vuole tempo per dimostrare che questo è un falso, nel frattempo la distruzione avanza e tipicamente il governo brasiliano tende poi a fare un'amnistia di questi crimini ambientali, quindi normalmente il gioco vale il costo, nel senso preferiscono dopo pagare una multa perché c'è l'amnistia che non fare questi disastri. Vabbè. E per finire la tragedia degli indios isolati, magari ci torni, cosiddetti isolati o cosiddetti brabos come li chiamano in foresta, che sarebbero brabos nel senso di selvaggi, violenti, pericolosi, a volte gli stessi indios vicini chiamano questi non contattati come brabos, che è un po' il simbolo di quello che è successo, di questa penetrazione dell'Amazzonia. Voi vedete spesso notizie su questi indios con nessun contatto dei bianchi, e il mito che sovrapponiamo a queste storie sono di persone che vivono come all'età della pietra, non hanno mai visto un uomo bianco e così via. In realtà sono persone del secolo XXI, assolutamente del secolo XXI. Alcuni di loro di fatto non hanno mai visto un bianco, però quello che tu scopri è che è una scelta cosciente da 300 anni di ritirarsi via via più su, sempre più a monte, in affluenti, poi in affluenti ed affluenti e così via, per andare sempre più a monte e garantirsi un posto lontano dall'avanzata dei bianchi. Quindi non sono isolati perché ancora nessuno l'ha scoperti, sono popoli che sono stati in contatto con molti altri popoli indigeni e si sono spostati costantemente per cercare di star lontani dal contatto con i bianchi, perché così come noi abbiamo una serie di miti sull'Amazzonia, loro hanno i loro. Quindi i loro miti dicono che il bianco dove arriva distrugge, dove arriva uccide, quindi vale la pena starne lontano. Non tanto forse. Comunque, questa è come carrellata. Adesso se avanza un po' di tempo, io vi vorrei, queste foto erano quasi tutte foto ovviamente scaricate da internet, invece volevo usare come tre esempi di questi dilemmi di Amazzonia, di queste contraddizioni, tre fra i miei viaggi, per farvi un po' vedere che in Amazzonia non ci sono facili colpevoli, facili capri espiatori, facili eroi e facili soluzioni. È una situazione di conflitto così complessa, così intricata, che non è così banale costruire il nemico, indicare il nemico, sia esso un nemico esterno, il mercato, il capitalismo, sia esso un nemico interno, i cercatori d'oro. Quello che ha è una serie di macchine, di ingranaggi terribili che macinano vite, macinano biodiversità, in cui a volte i carnefici degli indios sono a loro volta vittime di un altro pezzo di questo strano sistema. E quindi la soluzione non è semplice. Come proteggere l'Amazzonia, per esempio? Togliamo tutti, 20 milioni di persone? E questa è la maniera di proteggere? Vedremo fra poco che non è così ovvio, non è così banale. Quindi vi volevo fare un'idea di tre posti fra i tanti che io ho visitato, perché sono un po' un'allegoria di tre di questi dilemmi. Il primo è questo su come proteggere la foresta con le persone dentro, l'altro è fra che fuochi incrociati vivono gli indigeni oggi, quali tensioni li tirano da una parte e dall'altra e quali soluzioni stanno inventando da protagonisti, e come dare ordine al mondo. Quali sono i mondi possibili, gli altri futuri e gli altri passati che queste culture ci mostrano. Quindi prima andiamo qui, nell'Amazzonia brasiliana, un affluente del Rio Negro, Parco Nazionale dello Jaú, qua lo zoom un po' per darvi un'idea. Sempre buffo vedere le foto di satellite, perché siamo sempre abituati a vedere strade, città così, questo è così. Sono più o meno 2 milioni di ettari, no? In Italia i parchi nazionali grandi li misuriamo a migliaia di ettari, qui sono 2 milioni di ettari e questo è il Rio Jaú. È un parco nazionale straordinario con un piccolo problema. Loro hanno fatto un parco e per la legge brasiliana parco nazionale vuol dire lo stesso che da noi, ovvero non ci può essere caccia, non ci può essere pesca, non ci può essere impatto antropico, quindi non è una riserva per esempio indigena dove è ovvio che ci sono gli indigeni. Parco significa non ci può essere nessuno con attività di impatto, però hanno disegnato il parco in cima a gruppi umani che ci vivevano. Quindi io andai lì per finire tra l'altro questo libro all'epoca, invitato da una fondazione che stava cercando di entrare in contatto con tutti i gruppi di ribeirinhos e di caboclos che vivevano sugli affluenti di questo Rio Jaú, e il tentativo era andare a spiegare loro sostanzialmente che dovevano andare via, perché non c'era apparentemente modo dal punto di vista legale di che queste persone continuassero a pescare e cacciare. Io sono stato col direttore del parco che diceva: stanno svuotando l'Amazzonia, è bellissimo il paesaggio, ma finché questi pescano e cacciano siamo i fiumi diventeranno vuoti, scatole vuote, le foreste diventeranno scatole vuote, sparirà tutta la fauna e la flora, quindi devono andare via. E all'epoca della dittatura militare arrivava la polizia militare armata di mitragliatori da persone che erano nate lì, i cui genitori, i cui nonni e bisnonni erano nati lì, che non avevano neanche mai ben sentito parlare né di dittatura militare né di governo brasiliano. E arrivavano questi in uniforme col mitragliatore dicendo: qui si chiama parco, voi non potete pescare né cacciare, cioè non potete mangiare, quindi dovete andare via. E con gli anni la cosa cambia un po', però se chi conosce un po' le politiche ambientali deve ricordare che fino agli anni 80 anche il WWF, le grandi organizzazioni ambientaliste mondiali, l'idea era proprio questa: protezione ambientale a mano armata. Si finanziavano governi normalmente autoritari, per esempio in Africa, gli si compravano le armi e questi a suon di mitra difendevano le zanne degli elefanti, eccetera. Quindi più o meno era questa la politica brasiliana, e per molti anni, tra l'altro, lo stesso WWF ha appoggiato questo tipo di protezione in questa regione. Quando io arrivai lì, il WWF aveva cambiato completamente rotta e adesso finanziava un ONG che difendeva i diritti degli abitanti del posto, e mi dettero un passaggio sulla loro nave, che è questa qua, Fondazione Vittoria Regia, biologi, antropologi, sociologi in missione su questa nave per andare a parlare con gli abitanti e vedere come trovare una soluzione. Quindi la fondazione si è offerta come cuscinetto per negoziare col parco e col governo a trovare una soluzione che non necessariamente espellesse queste persone. Questa è la foresta di Gapò, che è la foresta inondata dalle acque color Coca-Cola del Rio Negro. Quindi per molti mesi la loro terra diventa acqua. Nelle pochissime terre emerse si uniscono in tregue momentanee migliaia di animali, fra coccodrilli, uccelli, insetti, scorpioni, eccetera, nel poco che resta di asciutto, e si passeggia per andare a casa in canoa in questa bellissima foresta inondata. Qua, tanto per giocare, per farvi vedere quanto riflette l'acqua del Rio Negro, queste acque scure come sono perfettamente specchiate. Vedete che strano quest'albero storto? In realtà ho girato la foto, questo era il riflesso e questo era il cielo anche qua, per darvi un'idea di quanto è forte il paesaggio. Ma insomma, quindi il tentativo lì, per esempio, è fare una diagnosi partecipativa, scoprire di cosa c'è bisogno, cosa manca, che tipo di risorse economiche ci sono bisogno. Molte di queste persone hanno bisogno di soldi fisici, per esempio per mandare i figli, per pagare il trasporto, per andare all'unica scuola che a volte sta a 2 giorni di barca dal loro villaggio. Per riuscire ad avere soldi materiali, loro, oltre a pescare per la loro sussistenza, pescano pesci eventualmente rari, perché più pregiati e più cari e quindi in estinzione, per venderli al mercato della città. Quindi si crea una specie di spirale in cui le necessità di mercato fanno aumentare l'impatto ambientale di persone che già stavano lì da generazioni e quindi non stavano avendo un impatto così grande, e a sua volta questa tendenza verso la città aumenta le necessità economiche di queste persone. Questo corre il rischio di creare una serie di effetti valanga in cui effettivamente l'impatto anche di poche famiglie può essere molto grande. Quindi si va in questi posti, si fa una diagnosi partecipativa e si cercano le soluzioni, per esempio gestire i pesci in maniera collettiva. Quindi i biologi sono rimasti sconvolti perché c'è il pirarucù, che è un pesce gigantesco, pregiato. Quando gli abitanti di queste zone hanno spiegato che l'impatto grave ambientale non erano loro che lo stavano causando, perché sanno gestirla questa risorsa senza estinguerla, ma che arrivavano barche industriali con i congelatori per prenderne decine e venderle a Manaus, che è la capitale, a quel punto si è creato uno sforzo congiunto fra scienziati, antropologi e pescatori per cercare di capire come fare. E i biologi con cui ho parlato io hanno scoperto una cosa straordinaria: che in queste acque completamente torbide, in cui non si vede nulla, il pirarucù ogni tanto, e anche altri vari tipi di pesci, ogni tanto vanno a prendere una boccata d'aria, e da questo suono pop pop che fa la boccata d'aria del pesce, i pescatori più esperti riescono a capire l'età del pesce, le dimensioni e il sesso. dicevano loro, ovviamente i biologi pensavano fosse una leggenda, e il sesso, e quindi pescano, riescono a pescare senza avere un impatto molto grave sulla prova. Stanno facendo gli esperimenti adesso e sembra che i pescatori abbiano ragione, cioè che i biologi si devono ricredere, effettivamente questo è reale. Quindi il primo punto è questo, diciamo, una delle grandi scoperte, una delle grandi innovazioni, diciamo, che l'Amazzonia ha offerto secondo me al pianeta nel secolo XX è stata questa reinvenzione della protezione ambientale, in cui l'unico modello non è l'unico modello possibile quello della protezione integrale senza uomini dentro. Chico Mendes è il famosissimo campione di questo modello, ma diciamo il messaggio che arrivò a partire dagli anni 70 e 80 dall'Amazzonia è: state attenti, perché forse la foresta in piedi è più facile averla se lasci le persone dentro che non se le cacci. Quindi adesso in Amazzonia c'è un mosaico di proposte, si chiamano riserve estrattive, riserve di sviluppo sostenibile, in cui si tenta questo convivio sempre delicato, sempre fragile, fra umani che cacciano e pescano, e a volte hanno un impatto anche relativamente grande, e che però sono i veri difensori della foresta, cioè quelli che poi quando arriva la nave industriale col congelatore, quando arriva il latifondista a deforestare, sono lì presenti e sanno che quello che è minacciato è la loro sopravvivenza, e quindi difendono la foresta con i denti. Seconda idea è questa qui: cosa succede nelle frontiere d'Amazzonia, in questi interstizi in cui sta in un posto come questo e qualcuno ti dice che qui è Brasile, qui è Venezuela, qui è Colombia. Io feci un viaggio così, la rivista Focus mi mandò a ricostruire la missione di von Humboldt, che è stato un grande scienziato naturalista dell'Ottocento, che andò in questa zona proprio al triplo confine 200 anni fa per scoprire se veramente esisteva questo mitico fiume chiamato Cassicchiare, che dicevano fosse un fiume che non avesse né sorgente né foce, ossia che nasceva da un altro fiume invece che da una montagna e sfociava in un altro fiume, cioè era un canale che collegava due bacini orografici diversi. Per i geografi dell'epoca questo era impossibile fisicamente, e Humboldt andò a controllare, perché invece gli indios dicevano che ci abitavano. Humboldt scoprì che c'avevano ragione: il Cassiquare unisce il bacino dell'Orinoco col bacino del Rio Negro e quindi dell'Amazonas, e io tentai col diario di Humboldt alla mano di rifare il viaggio passo passo. Humboldt era così ossessivo, così dettagliato, che io sono riuscito a ritrovare i sassi, le colline dove lui si è accampato, e dove lui diceva che dietro la tal collina gli avevano offerto degli strani indios con uno strano copricapo, una strana bevanda arancione. Io fui ricevuto da strani indios con strano copricapo che mi offrirono una strana bevanda arancione. Questo è il posto. Sta lì. Questo lo racconti nel libro? Questo no. Questo lo racconto un'altra parte, non c'è nel libro questa storia. Questo è il posto. Si naviga da qui fino alla tripla frontiera. Sono quasi 15 giorni di viaggio, durissimo, infernale, non so se riuscirei più a rifarlo. Bellissimo. Questa è la regione, straordinaria, veramente misteriosa. Questo con il monomotore si passano le parti più impenetrabili, e poi si viaggia in canoa e in battello per molti giorni di viaggio. I paesaggi sono straordinari. Questo è il lato venezuelano. Si incontrano, qui è come ci si fa il bagno, qui è dove si lavano i piatti, circondati dagli urubù che aiutano a pulire dalle molliche, che sono gli avvoltoi. Acque chiare, quindi insetti a profusione, più di 500 punture di zanzara. Zanzare mastodonti. Sono stato salvato da un medico cubano che stava in un piccolissimo villaggio, che mi ha dato gli antistaminici. È veramente duro il viaggio, e ovviamente ci si ferma costantemente perché ci sono le rapide, quindi bisogna scendere dalla canoa, portare la canoa in foresta, caricarsela sulle spalle, scavalcare le rapide, rimettere la canoa in acqua e così via per giorni e giorni. Vabbè, questo è un po' triste. E finalmente si arriva, diciamo, a questa triplice frontiera, il cui simbolo è questo sasso, che dicono che è il profilo di un grande guerriero indigeno che riuscì a resistere all'arrivo dei bianchi. E qui la triplice frontiera, ma che succede a chi vive lì? Ai tempi di Humboldt era più o meno, c'era una parte che era uguale, perché tu risalivi l'Orinoco, arrivavi all'inizio del Cassiquiare, non si poteva più passare, perché dice Humboldt nel suo diario, c'è un popolo ferocissimo di indios dalla pelle stranamente chiara che non fanno passare nessuno. Ancora oggi questo posto si chiama Smeralda, è una missione cattolica, e da lì non si può entrare perché comincia la riserva Yanomami, in cui si può andare solo con permesso, e gli Yanomami ancora oggi non lasciano entrare. Però alcune cose sono cambiate radicalmente. Intanto, oltre agli indios, ci sono questi riberinos e questi caboclos arrivati da tutte le parti del mondo. Alcune cose sono ancora uguali, che è la costruzione collettiva delle case. Nessuno ha la sua casa, nessuno costruisce da solo il suo futuro. Questo sapete cos'è? Ci avete un'idea? Il pane messo ad asciugare, fatto di farina di manioca, pizze di farina di manioca. Così si va a scuola, questa è la scuola. Questa avete idea di cos'è? Che può servire questa cosa? No. È di paglia, se era un forno piava fuoco. Ci si mettono le galline di notte, perché di notte arrivano i pipistrelli vampiri, e se le galline dormono fuori se le succhiano tutte. Quindi la notte ci si mette tutti là sotto per non essere succhiati dai vampiri. Questo è il bagno, questo è il coccodrillo che si mangia per cena, il caimano. Questa è la farina, come si cuoce. Insomma, una serie di cose, di pratiche, di rituali, di conoscenze, sono le stesse esatte che 200 anni fa Humboldt descrive nel suo diario di viaggio. Straordinario. Questa è la gomma, la caucciù. Altre cose no. La Coca-Cola, che incredibilmente arriva prima e più lontano di praticamente qualunque altra cosa. Arriva, è più capillare dell'arrivo dei medici, delle medicine, delle scuole, dell'energia, di internet. La Coca-Cola arriva realmente in qui, è realmente un posto in questa regione dove ho fatto questa foto, dove tu puoi navigare 3 giorni o camminare 6 giorni senza veramente incontrare anima viva. Però la barca della Coca-Cola, cioè, fa su e giù e distribuisce la Coca-Cola alla regione. E questa è la grande novità, diciamo, dei tempi di Humboldt. Uno dei fattori giganteschi di tensione nelle frontiere d'Amazzonia è l'arrivo di centinaia e centinaia di cercatori d'oro disperati, che per questo pugno di polvere d'oro sono letteralmente disposti a tutto. Quindi questo è uno dei primi fattori di tensione. Oro. L'impatto è violentissimo, perché questi arrivano ovviamente armati, l'impatto ambientale è grande, l'impatto sociale è grande. Dove arrivano i cercatori d'oro arriva prostituzione, malattie venere, violenza, specialmente contro gli indios. In questa regione in particolare era una fortissima presenza indigena e una violentissima presenza di cercatori d'oro che attraversano la frontiera, perché non ci sono controlli, e arrivano nel lato venezuelano, principalmente venendo dal Brasile. L'altro fattore di tensione straordinaria nelle frontiere è questo: per gli indios, che sono abituati a circolare, la loro terra è il fiume, l'acqua. Non c'è una separazione. Tu sei figlio del Solimões, tu sei figlio del Rio Negro. Molte dei posti in cui tu sei nato, in Amazzonia, non esistono più, perché sono isole che si formano e si... Avete visto i fiumi con le anse? Io ho conosciuto una ragazza, per esempio, che dice: io sono figlia di Jucutu, è un'isola che non esiste più. Adesso ce n'è un'altra, si è formata una nuova ansa nel fiume. Quindi in realtà loro sono figli del fiume, del flusso, non di un luogo fisico. Per gli indios il fatto che questa cosa del fiume, di poter visitare i villaggi, di incontrare i parenti, di fare i riti collettivi, di mantenere il tessuto del territorio, si spezza, perché arriva una frontiera, arrivano i cannoni, arriva la polizia, arrivano i passaporti, arrivano i cercatori d'oro, e qui in particolare arriva, nel caso in cui sono andato io, la guerriglia dalla Colombia. È una cosa dilacerante. Quindi gli indios e i paramilitari, ovviamente. Quindi lì per gli indios è una situazione veramente disperata. Loro praticamente sono chiusi fra fuochi di militari, di paramilitari, di cercatori d'oro, di missionari evangelici fondamentalisti, che a volte attuano con straordinaria violenza, compreso con i fucili, per impedire i loro riti. E la stessa guerriglia, per cui loro devono scappare desplazados, in esilio costante su questi fiumi, con famiglie spezzate da queste tensioni. In molte situazioni, per esempio, l'esercito colombiano, per cui ho incontrato loro sul lato venezuelano, gli indios, l'esercito colombiano arriva e prende il primo figlio, il primogenito, e lo arruola a forza nell'esercito per combattere contro le FARC, contro i guerriglieri. Arrivano poi le FARC e prendono a forza il secondo figlio perché combatta con le FARC, per cui gli indios semplicemente desistono di stare nel lato colombiano e vanno a vivere su quello per esempio brasiliano, dove però il governo dice: ma voi non siete brasiliani, non avete il passaporto e così via. Quindi, per dare un'idea, questo flusso di acque rotto da dinamiche politiche molto violente, questi per esempio è un villaggio Yanomami fuori del terreno Yanomami, perché io non ho violato la scelta degli Yanomami di non farmi entrare, a causa di un conflitto sono fuggiti, questi Yanomami hanno fatto un villaggio temporaneo sul Cassiquiare, vivevano in condizioni molto difficili. Hanno costruito un intero villaggio, però molto lontano dal resto della loro terra. La cosa più attraente per loro era vedere un bianco che cercava di lavarsi nel fiume. Sono riuniti l'intero villaggio per vedere questo. E quindi questo è l'altro fattore, ovvero come uscire da situazioni in cui una logica di funzionamento come quella dello Stato si scontra brutalmente con un modo di far funzionare il territorio e il mondo, le risorse, che è quella del collettivismo indigeno, per esempio. Quindi lì era molto forte questa cosa, e non c'è una soluzione facile, perché per esempio l'arrivo dei minatori dal Brasile, che era un fattore di violenza straordinario e su cui il governo venezuelano faceva pochissimo, è stato risolto in buona parte dai guerriglieri delle FARC, che sono stati avvisati dagli indios che c'era un problema gigantesco con vari assassinati di indios. Le FARC hanno attraversato proprio nei giorni in cui stavo lì. Io ho assistito a questo personalmente. Il capitano della guerriglia è andato a parlare col capitano venezuelano. Per una notte l'esercito venezuelano ha deciso di chiudere un occhio, hanno lasciato passare le FARC, che sono andati dai Garimpeiros, hanno disarmati tutti, hanno espulsi sul lato brasiliano e gli hanno ovviamente promesso la morte se fossero tornati, e così via, nel senso, lo stesso con i missionari. C'è una serie di equilibri stabili in cui non è sempre evidente dove sta la cosa che tu devi chiamare nemico per risolvere il problema. Non è assolutamente chiaro, diciamo. E per gli indios meno che mai, perché loro non capiscono proprio con base in quale ragionamenti noi avremo queste cose. E poi purtroppo in certi momenti sono anche usati proprio perché non riconoscono i confini, esatto, eccetera, come esatto, per esatto, vari traffici, insomma. Esatto. L'ultima cosa, brevissima, se no poi vi faccio far tardi, è Bolivia, un altro pezzo d'Amazzonia, si scende al confine col Brasile, parco nazionale splendido e pericoloso, perché è una delle rotte del traffico di cocaina fra la Bolivia e il Brasile, quindi non molto visitato, e qui si va guidati da indigeni che fanno anche le guide per i turisti, ti aiutano a campare, a cucinare, ad asciugare i vestiti quando si riempiono di insetti e di umidità, eccetera eccetera. E anche qua è abbastanza difficile il trasporto, ovviamente molto complicato il viaggio. Però volevo raccontarvi solo questa storia finale. In questo viaggio io mi sono accorto chiaramente che, nonostante conoscessi l'Amazzonia già da più di 10 anni, la guida indigena mi guardava come si guarda un bambino che in qualunque momento si può far male. Quindi io tagliavo una liana, lui mi tirava via perché avevo tagliato quella sbagliata, che usciva un liquido urticante invece che l'acqua da bere, mi infilavo le scarpe e lui mi faceva fare un salto perché non avevo visto che c'era dentro un insetto velenoso, e così via. E mi guardava con l'aria paternalista con cui io, che ero giornalista, fisico e professore, ero abituato a guardare gli altri, no? Dall'alto in basso, colui che sa, il saggio versus gli ignoranti. Fu un viaggio durissimo, faticosissimo, perché bisogna scalare questo altipiano per riuscire ad arrivare fino in cima, e mentre viaggiavamo io ho cominciato a capire che questa persona sentiva cose, vedeva cose che io non vedevo e non sentivo. È stata un'esperienza assolutamente scioccante, perché una cosa è dire: bene, ci sono conoscenze locali per cui lui sa riconoscere le liane, io no, lui sa riconoscere scolopendri, io no, ma lì la situazione era un'altra. Io stavo vedendo che la maniera di dare ordine al mondo, di percepire i colori, i suoni, gli odori, era connessa in una maniera completamente diversa dalla mia. Questa persona stava da sola e viaggiava con me. Io gli chiesi da dove veniva e lui mi spiegò che nel villaggio dove era venuto lui era successa una cosa, che una signora gli aveva rubato tutti i suoi animali domestici e gli aveva fatto una serie di violenze e quindi lui era andato via. E scoprì che la loro maniera di risolvere i conflitti era più o meno opposta alla nostra. In una terra senza leggi, senza capi, senza polizia, senza prigioni, la vittima va in esilio. Quindi lui stava da 3 mesi in foresta da solo, a 3 giorni di distanza dal suo villaggio, perché era stato vittima di una serie di violenze. E si era anche rotto la gamba, tra l'altro. E mi spiegò che quando una serie di cose negative succedono, sono come dei fili di energia invisibili che si tendono nel villaggio. È pericolosissimo perché ci si inciampa e ci si rompe la gamba. L'unica maniera di allentare questa tensione di energia è allontanarsi. Nella misura in cui camminavamo insieme per giorni e giorni, ho capito come funzionava questo meccanismo di risolvere i conflitti. Le persone che vivono in capanne comuni in cerchio e la sera parlavano di questa persona da sola, distante da casa, nella foresta, che deve pescare da solo, cacciare da solo, cavarsela da solo, e cominciano a commentare tutti insieme, famiglia con famiglia, si sente tutto, non c'è separazione fra una casa e l'altra. Ma possibile? Non solo gli hanno ucciso la mucca, gli hanno rubato le galline, si è rotto la gamba, ma sta anche lì da solo. Si crea un clima in cui al suo ritorno lui verrà retribuito con la mucca, con le galline, con le scuse, con gli onori che questo compete, senza che sia stato necessario espellere o castigare o uccidere o mettere in prigione la colpevole della violenza. È un meccanismo di recupero, diciamo, dei conflitti. Quindi lui stava con me in questo viaggio e oltre che io vedevo appunto che c'aveva un'idea di cos'è una regola, di cos'è una legge, di cos'è una gerarchia completamente diversa dalla mia, aveva questa maniera di percepire le cose. Per cui in questo fiume, per esempio, non si vede dalla foto, perché io non lo vedevo, infatti, io cercavo le lontre giganti, che erano uno dei pochi animali che ancora non ero mai riuscito a vedere. Lui mi portò in canoa in questo fiume e in questo punto lui mi disse: sono 5, ci sono 3 cuccioli e una coppia. Io avevo il binocolo, lui era occhio nudo, col binocolo era assolutamente impossibile vedere qualunque cosa. Remammo più di 10 minuti e 10 minuti dopo, col binocolo, io vidi 5 lontre. Assolutamente impossibile capire quali erano gli adulti e i piccoli, perché ancora erano puntini, però lui aveva visto occhio nudo 10 minuti prima di me una cosa che ho visto 10 minuti dopo col binocolo. Il giorno prima lui mi disse che il suo collega, che stava portando un gruppo di tedeschi, aveva visto un giaguaro in mezzo a una piccata, che sono questi sentieri drittissimi che tagliano la foresta a volte per 10, 20, 30 chilometri, un taglio che si fa con i trattori, e lui portava questi turisti tedeschi che cercavano di vedere i felini, e l'indio disse: eccolo là, un giaguaro. Nessuno lo vide, neanche col binocolo. Finché un tedesco, che era anche astrofilo, aveva un telescopio, piazzò il treppiede e dopo 20 minuti di montaggio del telescopio, col treppiede videro seduto in mezzo alla strada, a molti chilometri di distanza, sto giaguaro seduto. Infine salimmo su questo altopiano e io sempre col mio binocolo, e lui mi disse... quando arrivavamo era mezzogiorno, cominciamo a preparare il fuoco per cucinare, e lui sapeva che io ero astrofisico e mi disse: mi presti il binocolo che voglio vedere in cielo? E io, col mio paternalismo di persona laureata che parla con un analfabeto, disse: è pericolosissimo, è mezzogiorno, se punti il binocolo e prendi il sole ti fai molto male. Lui sorrise come se sorride a un bambino e mi disse: no, ma io non vedo il sole, voglio vedere quella stella. Era mezzogiorno. La stella era Venere, lui la vedeva ad occhio nudo a mezzogiorno, e finalmente mi prese per il mento, mi mise il binocolo sulla faccia, mi orientò la testa finché io col binocolo riuscii a vedere vagamente che c'era Venere lì. Quando gli chiesi perché noi non vedevamo, non sentivamo, così lui mi disse: ma è normale, c'aveva una strana teoria quasi darwiniana di perché noi bianchi non sentiamo. Lui disse: voi vivete in posti... Certo. Dove è impossibile vivere. Se non vi si chiudesse il cuore, non tagliaste tutto il sentire, i sentimenti e le emozioni, morireste di tristezza. Se non vi si chiudesse il naso e le orecchie, voi morireste per la puzza e il rumore che sentite nella vostra città. Se non chiudeste tutte le vostre maniere di sentire abbastanza, voi non riuscireste a sopravvivere. Quindi questa è l'altra cosa, l'ultima. Noi abbiamo sovrapposto in Amazzonia una serie di miti. Incontri lì cose completamente diverse da quelle che ti immagini, ricchissime, e in rapido sparizione. Come fare? La mia idea è che va reinventata di nuovo l'Amazzonia. La maniera per riuscire a uscire da queste situazioni così complesse, di contraddizioni, non è quella di cercare le soluzioni facili che l'Occidente ha già tentato. È quella di approfittare le invenzioni che lì sorgono, come è sorto il movimento senza terra, come è sorta l'idea di estrattivismo con Chico Mendes, come sorgono queste maniere bizzarre di risolvere conflitti irrisolubili, di fluire nel fiume quando da una parte ci sono i paramilitari e dall'altra il governo. Riuscire a reinventarla come loro la reinventano quotidianamente, e senza cercare le soluzioni facili, perché non è togliendo le persone, per esempio, che si risolve, non è semplicemente facendo un boicottaggio economico, non è sufficiente, è necessario che si risolve, e reinventarla come loro la inventano tutti i giorni. Grazie. Beh, grazie per questo racconto straordinario. Certo, vengono tante domande, tante riflessioni, ma credo che non abbiamo poi molto tempo se vogliamo lasciare spazio perché ognuno di noi chieda delle cose. A me vengono in mente solo due brevi immagini, no? Penso alla c'è una popolazione indigena delle circa 35 che sono state censite in Venezuela, che vive sull'acqua, sulle palafitte. Non so se tu la conosci. E il problema era come portargli la luce, le case, senza sconvolgerne l'equilibrio di vita, no? E ben, hanno deciso di portarli con gli elicotteri. Lì esiste questa modalità di un esercito popolare che non è militarista, e l'Unione Civico Militare, di portarli le case, ricostruiscono le case uguali, però case con la luce e tutto, ma sulle palafitte. Cioè, quindi sono loro che decidono le loro modalità attraverso cui vogliono curarsi. E un altro esempio straordinario, tu prima dicevi c'è un medico cubano lì nei posti più sperduti, no? È quello che è riuscito a fare Cuba, coniugando i saperi antichi e facendo anche di necessità virtù, perché con un blocco economico totale e feroce che dura da oltre 50 anni hanno dovuto fare con quello che avevano, e sono riusciti a coniugare i saperi antichi, appunto, soprattutto rispetto alla medicina, con la ricerca più moderna, e mettendola a disposizione delle popolazioni del sud globale, dove fare ricerca costa tanto e nessuna industria farmaceutica investe, perché non ci guadagna niente. Invece, facendo ricerca proprio sulle malattie che colpiscono le popolazioni più recondite, questo si è riusciti a portarlo avanti in una maniera straordinaria e gratuita. Quindi, perché questo cosa porta? È chiaro che è una questione complicata, soprattutto mettere in avanti antiche cosmogonie con la velocità tremenda del mondo, ma c'è sempre una responsabilità che non si capisce perché, col livello di avanzamento tecnologico che abbiamo raggiunto, che consentirebbe con le nuove tecnologie di avere un controllo totale senza spostarsi in ogni angolo del pianeta, perché noi, insomma, l'imperialismo inventa dei droni piccolissimi come una libellula per mandare appunto morte e distruzione, non si potrebbe invece coniugare la partecipazione al basso, questo censimento appunto, senza delegarlo alla volontà di qualche ONG, con tutto quello che è il governo delle risorse a favore delle popolazioni e non della distruzione. Un'ultima domanda che volevo fare a Yuri è che lui lavora a Minas Gerais, no? che è uno del luogo dove c'è stato il disastro ambientale forse più terribile degli ultimi tempi e che effettivamente ha colpito riserve biologiche meravigliose, dove effettivamente non si riesce a normare nelle zone, soprattutto anche di frontiera, adesso a parte lì, questo traffico illegale che produce molta più devastazione perché non è controllato di quanto già il neosviluppismo non è produca. Quindi qual è stata la tua esperienza, come hai vissuto questo, se vuoi parlarcene, se no? Rispondo già o aggiungiamo una domanda così faccio? Fate voi, se volete fare domande così lui poi risponde tutte assieme. Così rispondo a gruppi di due o tre domande, se qualcuno ce n'ha una. Prego. Grazie. Allora, comincio a rispondere tanto. C'è un'altra domanda? Sì. Io ho la fortuna di essere cittadino onorario di Macapà. Mamma mia. La capitale della Macapà. Della Macapà. Più piccolo stato del Brasile, è il 95% protetto. È uno dei pochi stati. Ma la ragione di fondo è perché è stata governata per un certo periodo anche da delle persone illuminate. Il problema vero dell'Amazzonia, anche chi ha gestito lo Stato di Amazzonia, soprattutto lo Stato centrale dell'Amazzonia, e questo pesa molto. E poi pesa molto un falso concetto di indipendenza dei vari Stati. E quindi che cosa succede? Anche con Lula, con il quale sono legati da rapporti decennali, non ha potuto far, quando gli ho posto la domanda, non ha potuto far molto, perché lo Stato federale ha margini molto limitati di intervento sui singoli Stati. Però devo dire che laddove si è riusciti a intervenire, per esempio come la MAPA, si è riusciti a fare molte cose, anche in termini di difesa dei nativi, con interventi massicci e poi soprattutto con molta esperienza, quella di utilizzare queste scuole in cui vivevano gli abitanti insieme ai contadini, insieme ai figli, in cui nasceva la scuola ma nasceva anche il rapporto diretto con il territorio, con la foresta. E sono cose molto, molto significative, bisognerebbe andare per conoscere anche queste cose. Per favore ci dite i vostri nomi, così ci rimane anche l'intervento. Lorenzo? Sì, grazie. Comincio allora da professor Pollic. Sono d'accordissimo, la MAPA è una realtà veramente speciale. Sono d'accordissimo che lì la politica ha fatto la differenza, e incredibile non solo per questo, per come si sono riusciti a costruire un sistema di protezione ambientale e di difesa dell'Indio, tra l'altro, perché i YMP, per esempio, tutta una serie di popolazioni che erano direttamente minacciate da per esempio dall'entrata di missionari nordamericani, sono stati completamente arginati da una da una presenza mirata di antropologi e da una politica ben fatta. Sono d'accordo anche su questo fatto che è difficilissimo in un paese federale con le autonomie e soprattutto la corruzione anche di certi governi amazzonici avere una politica organica e organizzata, però e qui vengo anche a quello che diceva Geraldina. C'è che uno dei problemi del dover reinventare l'Amazzonia, secondo me, è che una parte della maniera in cui il Brasile ha inventato la sua Amazzonia, molto diversa da come l'Europa l'ha inventata, era su un mito del progresso, che era un mito di un progresso inteso come pulizia. La foresta era ciò che ti ostacolava, ti impediva, ti sporcava, e quindi ancora oggi in Brasile si dice l'ho pulito questo terreno. In Rondônia, in Roraima, io in moltissimi posti completamente deforestati vedevo persone tutte contente che ho detto finalmente siamo riusciti a pulire. Quando costruiscono Brasilia con quella forma o arco e freccia o aeroplano che punta esattamente nell'interno impenetrabile del Brasile, il messaggio è molto chiaro: per fare del Brasile un paese che chega là, come dicono i brasiliani, cioè che un giorno arriva ad essere il primo mondo, bisogna pulirlo questo territorio, bisogna renderlo produttivo, però per come noi capiamo la produttività, che era un modello di agricoltura come la intendevamo noi, di industrializzazione, di strade, di dighe, e le strade per esempio in Amazzonia sono un vettore terribile di deforestazione e di perdita di controllo poi governamentale. Quindi su questa, diciamo, invenzione di cos'è il progresso, secondo me lì non è stato fatto abbastanza. Secondo me anche i governi di sinistra non sono stati capaci di raccogliere questa sfida, un po' per una serie di dinamiche che già c'erano e una serie di necessità come quella dell'energia elettrica, e un po' per mancanza di voler ascoltare come reinventarla questa cosa. Quindi il neosviluppismo, secondo me, è stato un grande problema per l'Amazzonia. E invece non lo è il progresso in sé, con la tecnologia in sé. Per esempio, questa idea strana che se un indio usa il telefonino, si mette le scarpe da tennis o è vestito, non è più un indio, ha perso la cultura, in realtà non è vera, perché sin dal momento in cui gli europei arrivano e vedono questi popoli cannibali e non capiscono, perché quello che non capivano è che la cultura amerindia è una cultura del molteplice, non dell'uno come la nostra. Noi siamo una cultura dell'uno, cioè l'altro, il diverso è prima di tutto un possibile pericolo, una possibile minaccia all'unità, all'identità. Nella maggior parte delle culture amerindie l'altro va incorporato, va assaggiato, va sperimentato. Per cui in Brasile, per esempio, non è un caso che ci sono tutte le feste, quella della birra, quella degli irlandesi, Halloween, qualunque cosa succeda nel pianeta, i brasiliani in una maniera o nell'altra prima o poi la incorporano. Secondo me è una cosa meravigliosa, e secondo me è legata molto al contesto antropofagico amerindio, cioè questa idea di che il diverso è prima una risorsa che non un pericolo o un nemico. E quindi che succede per esempio quando arriva la tecnologia dagli indios? Per esempio Ladio, quando è venuto qui il mese scorso, una delle cose che ha chiesto come aiuto internazionale sono radio, delle radio. Esatto. Il fatto di dare le radio agli indios non necessariamente è una minaccia alla loro integrità o alla loro determinazione culturale o alla continuità di una serie di processi. Perché? Perché loro cannibalizzano la tecnologia, la reinventano, la riusano in una maniera che funzioni, che abbia una funzione dentro a quella maniera di ordinare il mondo. Quindi per esempio sul Rio Juruá gli indios che avevano chiesto la radio la usavano sia per funzioni, diciamo, di interfaccia col mondo dei bianchi, ovvero per chiamare aiuto quando c'erano epidemie di malaria, per chiedere l'aiuto del governo e le medicine quando c'erano oppure per chiedere aiuto quando c'era l'invasione di cercatori d'oro. Ma dopo pochissime settimane che questa antenna di radio era in mezzo alla selva, io stavo lì e era bellissimo, perché al tramonto arrivavano tutti, i ragazzini, gli adolescenti, le donne, gli anziani e gli sciamani, tutti intorno a sta radio, si faceva una fila e prima parlavano i bimbi, che si comunicavano con villaggi che erano a 8 giorni di canoe, quindi situazioni in cui ci si incontra una volta l'anno, e invece si raccontavano: ehi parente, che avete pescato oggi? Ci stava là il piranha, ci stava la pacca, che avete mangiato? Poi gli adolescenti che si corteggiavano e preparavano le relazioni future per poi vedersi fisicamente, poi le donne che parlavano di agricoltura, di produzione, dei problemi, delle malattie, poi gli anziani che cominciavano a cantare, e per ultimi la radio diventava degli sciamani che trasformavano la radio in uno strumento sciamanico, ossia facevano cure a distanza di un malato e guerre a distanza, perché ci sono alcune guerre sciamaniche in Amazzonia occidentale in cui tu lanci con due dita il Jo-Ho, che è una pietra di energia invisibile che tu lanci al nemico, lui gli entra qui e sente un dolore terribile, una fitta e quindi la radio non ha distrutto la loro cultura, è stata cannibalizzata fra virgolette, ha rafforzato una serie di pratiche che invece si stavano perdendo e così via. Il calcio è arrivato lì, il football gli piace tantissimo agli indios, le radioline con la musica per ballare, la discoteca. Sono andato in un villaggio dove danzavano la house music, la techno. Gli piaceva moltissimo, ma non era una distruzione del tessuto. Perché? Perché non arrivava con la violenza del mercato, della necessità del commercio, era reincorporata in meccanismi di trance sciamaniche, in tecniche dell'estasi, in cui il ritmo della techno non era poi così diverso da quello. Quindi il progresso non è che è un nemico nella foresta, però dipende come arriva. Se arriva come sviluppismo per accelerare la produzione, normalmente in un ecosistema apparentemente di abbondanza ma fragilissimo come l'Amazzonia è un pericolo. Se arriva come strumento culturale da incorporare, reinventare, allora ad esempio gli arbitri nel campionato di calcio di Amazzonia occidentale fra indios sono due arbitri, perché uno deve guardare i giocatori e l'altro deve guardare il pubblico, perché gli sciamani lanciano queste pietre agli attaccanti e li fanno cadere a terra perché li colpiscono sui reni con questa energia invisibile quindi che vuol dire? Il calcio ha distrutto la cultura indigena, la telecamera lo fa, la radio lo fa, non necessariamente, al contrario, a volte rafforzano. Quindi sono d'accordissimo che il problema non è la tecnologia, non è il progresso, è come lo inventiamo. Qual è il modello? Il controllo che c'è, certo. E chi c'è il controllo, esatto. E adesso sto vivendo a Torpignattara, siamo quasi vicini di casa, però sto per ripartire. Ma tornerò, ci manteniamo in contatto. Qualche altro commento? Prego, siete in due. Sì. Grazie. Sei, come ti chiami? Gianmarco. Io mi chiamo Alfredo e mi occupo da un po' di anni di una ricerca su un tentativo di comune della lettura brasiliana e tutto il tempo propagando che si chiama rappresenta la storia che si affida nel sangue in Italia. Volevo chiederti se c'è memoria di quelli spazzati lì, se ancora è vivo o sono riusciti a spazzare via. Allora, mamma mia, molte domande, molte diverse. Così collego anche con la seconda che aveva fatto Geraldina. C'è ancora un'altra domanda? Ah, facciamo tre allora. Sì. Poi andiamo a cena. Allora, cominciando da riscaldamento globale, collego anche con Mariana. No, in Brasile è molto presente, in generale, nella coscienza popolare è molto presente la questione ambientale, è molto presente il cambiamento climatico, è molto forte la coscienza dei legami fra il livello globale e l'importanza dell'Amazzonia, quindi questo è un discorso presente. Tra l'altro perché in Brasile è già molto visibile gli effetti. È ovvio che è difficile a livello locale con le oscillazioni fortissime che il clima amazzonico sempre ha e i fenomeni estremi che sempre ci sono stati quindi inondazioni, siccità, eccetera, è difficile poi valutare. Però, per esempio, in Brasile abbiamo avuto eventi climatici estremi mai successi in America Latina, tutti negli ultimi 10 anni. Quindi, per esempio, uragani che non c'erano mai stati, non erano previsti sui manuali di climatologia. E in Amazzonia c'è stata la famosissima secca di alcuni anni fa, che è stata una secca gigantesca che ha praticamente prosciugato regioni enormi. E c'è il famoso esperimento del fiammifero, cioè nelle zone in cui hai avuto deforestazione, tu prendi un fiammifero, prendi una tanica di benzina o cherosene, butti la benzina nella foresta e ci dai fuoco. Nella foresta normale, primaria, tipica, non prende il fuoco, perché c'è un metro di acqua che impregna il metro di suolo, quindi normalmente non prende fuoco. Quando adesso fai questo esperimento in varie zone dell'Amazzonia, la foresta prende fuoco, è anche difficile controllare. Quindi che è successo? È stato un progressivo prosciugamento di queste enormi riserve di acqua che impregnavano la biomassa, quindi e questo è molto visibile, fenomeni estremi molto visibili, e la savanizzazione, che ovviamente non è solo per il cambiamento climatico, ma è per l'avanzata della deforestazione, però queste cose si stanno collegando, quindi il ciclo delle acque sta cambiando fortemente, c'è una serie di fenomeni che sono molto visibili a chi vive là. La discussione è molto grande, e il Brasile ha una posizione interessante, che ovviamente è quella di andare in direzione a politiche globali di controllo del cambiamento climatico, ma col problema che il Brasile, insieme a una serie di altri paesi in via di sviluppo, esige, diciamo, la giustizia ambientale. Cioè l'idea è: se voi avete deforestato tutto per riuscire a costruire una società industriale con quel livello di prodotto interno lordo, non è che ci potete dire a noi adesso di fermare tutto finché non riusciamo a garantire la stessa ricchezza che voi avete raggiunto. Quindi c'è un problema molto grande di negoziazione, che è quello, come sai, dei crediti di carbonio, di come fare questa cosa. Lì è delicato, ovviamente è un'altra cosa molto difficile. Lì il problema grande, secondo me, di gestire queste cose è un po' quello che diceva Guido Pollici, che è come fare una politica nazionale con questi governi locali. E un po' pensando a Mariana, la catastrofe di Mariana, il Parlamento brasiliano tradizionalmente è dominato da lobbies. Esatto. Da sempre è sempre stato dominato da lobbies, no? Adesso in particolare si dice della lobby BBB, né? La Bibbia, la bala, cioè la pallottola, né? E boy, il bue, no? Quindi l'agrobusiness compra, diciamo, un quarto, un quinto, a volte anche un terzo di tutti i deputati che ci sono, il fondamentalismo religioso, che normalmente è associato con l'opposizione, e bala nel senso della pallottola, quindi la libertà di comprare armi, un po' quel discorso che c'è. È difficilissimo per un governo, per un presidente della Repubblica, riuscire a controllare un Parlamento così composto. Quindi normalmente le leggi che escono da questo Parlamento sono straordinariamente a favore del latifondo, della deforestazione, dell'amnistia, chi fa queste cose. Infatti i movimenti chiedono una riforma istituzionale. Sì, e la violenza, per esempio, adesso in Amazzonia è cresciuta enormemente. Adesso che queste persone hanno mano libera, gli assassini di militanti, di contadini, di indios, hanno fatto un salto di qualità negativo, terribile. E Mariana è un caso analogo. Così come il codice forestale ha aperto una serie di possibilità per latifondisti inedite, diciamo, molto gravi, il codice minerario dello Stato di Minas Gerais dà un margine di non controllo, di manovra alle compagnie minerarie enorme. E adesso che c'è stato lo scandalo e il disastro, con i morti, uno dei più grandi disastri ambientali della storia brasiliana, si è visto un buon giornalista investigativo andare a pigliare tutti gli archivi PDF e Word dei progetti di legge di come controllare e rendere più sicura l'attività mineraria, ha scoperto che tutti questi archivi dei progetti di legge presentati dai deputati in Parlamento erano stati scritti sui computer delle compagnie. Quindi il lobbista della ditta che produce ferro scrive la legge, la manda al deputato, il deputato neanche la copia e la incolla sull'archivio suo, manda direttamente questo al voto con quindi questo è il livello, capito? Il problema della politica è che siamo a livello di mancanza di controllo, diciamo, della società civile, brutale, specialmente in questo momento. Mi sono scordato quello. La memoria storica sulla guerriglia, sull'Araguay è molto forte e molto minacciata, nel senso adesso c'è in atto un'operazione di revisionismo scioccante, secondo me, scioccante perché io non l'ho mai visto succedere neanche nei peggiori momenti della storia italiana. Hai ragione, è proprio così. Mai in Germania hanno tentato di fare una cosa, cioè il revisionismo sul nazismo e sulla Shoah in Europa non si confronta con quello che sta succedendo in Brasile. Adesso c'è un meccanismo assurdo di equiparare a terroristi tutti quelli che hanno fatto la resistenza durante la dittatura, quindi l'Araguaia, anzi, già era difficile prima, diciamo. Beh, abbiamo visto la canea contro Dilma durante... Sì, esatto, quindi è una violenza brutale. Il Bolsonaro, che è il deputato più estremo in questo, ha elogiato pubblicamente in una sessione del Parlamento il torturatore della presidente Dilma, quindi vedi che livello. Quindi la memoria c'è, è una memoria secondo me forte, però che si sta perdendo nei settori dei giovani, nei settori popolari che già hanno passato generazioni, e non sta, secondo me, questa è l'opinione di un gringo che vive in Brasile, quindi ce ne saranno molte altre, secondo me non c'è uno sforzo di mantenere questa memoria viva come qualunque paese che ha avuto la dittatura dovrebbe fare. Cioè ci devono essere, deve essere molto più forte i musei della tortura, in ogni città ci devono essere conosciuti i luoghi, come qui a Roma sappiamo cosa è successo a Porta San Paolo, cosa è successo alle Fosse Ardeatine, come i berlinesi non dimenticano mai perché c'è sta ancora il libro dove hanno bruciato i libri, c'è sta ancora non si può scordare questo, deve essere una cosa che ti entra nella carne e ti fa pensare. In Brasile questa operazione non è mai stata fatta abbastanza e quindi adesso c'è quest'onda di negazionismo, è pericolosissimo. Io per esempio, per riuscire a visitare una senzala, ovvero i sotterranei dove venivano tenuti gli schiavi, ci ho messo anni, perché mentre qui tutti sanno dove sono i campi di concentramento, nessuno si scorda che esistono, quello che per i brasiliani è il campo di concentramento, cioè milioni di esseri umani schiavizzati, torturati, uccisi per 300 anni, quasi 300 anni, sono pochissimi questi posti, non c'è Auschwitz in Brasile. Beh, ti ricordi quando Dilma Rousseff tentò di fare una legge per a proposito del Condor, contro l'impunità, eccetera? Cioè, ovviamente mezzo paese reazionario, i militari sono ancora fortissimamente rappresentati, scesero in piazza, evidentemente, come lo sono scesi nelle ultime manifestazioni. Quindi, secondo me, la memoria popolare c'è. Però per esempio la commissione della verità è stata ostacolata in tutti i modi dai militari, né Lula né Dilma sono riusciti secondo me minimamente a sbloccare la cosa a livello sufficiente, quindi e adesso è in pericolo, perché adesso questo discorso che non è stata una dittatura ma una rivoluzione, che gli altri erano terroristi, che se non ci fosse stato i militari il comunismo avrebbe ucciso tutti, è un discorso fortissimo fra molti giovani. Io all'università ho alunni così. Come la teoria dei due demoni in Argentina, che per fortuna non è riuscita a passare, perché effettivamente c'è stata un'ondata progressista molto forte, però è quella che di fatto, insomma, il revisionismo storico non è che noi qua non lo abbiamo conosciuto, non lo conosciamo, perché quel che riguarda il nazifascismo, ma non solo. Bene, se non ci sono altre domande, credo che dobbiamo anche chiudere. Un grazie veramente forte a Yuri per questa straordinaria lezione. Quindi grazie, a presto e alla prossima iniziativa. Ancora grazie all'Abbasso e a tutta la gente straordinaria che la abita. Ciao.